Buongiorno a tutti. Nell'approfondimento della Hasidut che stiamo studiando, stiamo vedendo le varie tattiche che lo Yetzer Hara, quell'istinto negativo che abbiamo dentro di noi, ci convince a seguire vie che non sono le vie volute dalla Torah, impiegando varie tattiche, varie strategie. Abbiamo parlato la scorsa volta, per esempio, della persona che si convince, tanto nessuno vede, nessuno sa, e questa è una delle strategie che Yetzer Hara impiega molto fortemente per dire che non è così terribile e così via. Ora vediamo, pagina 45, un altro aspetto di queste strategie. E qual è? Ozot Hira Achola, un ulteriore male che esiste, Masheha Adam Matzdiket Atzmo al Maaseh Achet She'asa, dal fatto che la persona si autogiustifica rispetto all'atto della trasgressione o del peccato che ha fatto. Cosa significa si autogiustifica? È la caratteristica della persona che in Adam betivò, per la natura dell'uomo, ne col davar, qualsiasi cosa che, di cui si potrebbe parlare, tov, che sia bene, o ra, o che sia male, ben in yanshel deot, che sia una cosa che riguarda le opinioni, le idee. Deot, sono letteralmente opinioni. Uben inyan shel midot, o che sia qualcosa legato alle midot, cioè ai tratti caratteriali della persona, vehanaga, e il comportamento della persona, che sia ben sheyye, che sia bedavar, riguardo qualcosa sheben adam lamakom, tra l'uomo e Dio. Oppure ben inyan shel midot ve'anaga, o che sia qualcosa che sheyeh ben adam lachavero, tra la persona e altre persone, o ben adam le'atzmo, tra la persona e se stessa, dentro di sé, qualsiasi ambito dell'esperienza umana, nella persona stessa, nel suo rapporto con altre persone o nel suo rapporto con HaKadosh Baruch Hu. La natura della persona è la seguente: im adavar utov, se è qualcosa di positivo, in qualsiasi di questi ambiti, opinioni, idee, tratti caratteriali buoni, comportamenti, eccetera. In qualsiasi di questi casi, se la cosa è buona, la persona la attribuisce a se stesso. Utoleum yachasole atzmo. Attribuisce a sé questa bella cosa. Vim hadavar hurra. E se la cosa è negativa, innehu tolleu miachaso lezulato, lo attribuisce a chi? Ad altri, a qualcun altro. Come? Esatto, tutti lo sanno, è così. Questa è la natura, appunto, di liota adam betivo. Questo perché? La causa è semplice. Visto che la persona per natura, betiv o, cioè il suo teva, la sua natura, è ohev et atzmo, vuole bene a se stesso, questa è la natura umana, amare se stessi, inè, allora questo amore qui, questo voler bene qui, ahavato zot, lo zo bilvad, non solamente, shemechassa, che copre, nasconde, l'amore nasconde al colpi sheyatzmo, nasconde le proprie problematiche, i propri peccati, sheinom margish klal, che in realtà non se ne accorge neanche, asher hu beatzmo hashem baze, a volte la persona è così convinta che la colpa è di qualcun altro che neanche si accorge che davvero la colpa è sua. Ma non solamente non si sente colpevole, e la ozocu mazdik et atzmo, ancora di più si rende mazdik, si rende tzadik, cioè si rende, si dà la ragione si considera virtuoso, importante. Non solamente non riconosce la colpevolezza, ma addirittura crede di essere un santo. La natura umana. Allora, anche se effettivamente, come adesso dirà, effettivamente è vero che ci sono tanti elementi che influiscono sul comportamento della persona. È vero che fino a un certo punto una persona può dire sono un prodotto di qualcosa. Ok? Però questo ha un limite. Vediamo. Vehinne. Ora. Afki emet adavar. Nonostante fosse vero, emet, fosse vero. Asher. Harbe yaldut ossa. Che l'immaturità fa molto. Più nella giovinezza. Ve harbe haverim raim ossim. Il circolo sociale delle persone fa molto, se ci sono haverim, amici, raim, non buoni, allora questo fa molto. Ubifrach nehem yachdav, e specialmente se entrambe queste cose, l'immaturità, con un aspetto sociale non positivo, fa molto. Bene, è vero, ci sono influenze esterne, però, aval be'emet, ma in realtà, di chi è la colpa? Chi sceglie gli amici? Beh, me tu beatzmo Hashem base. In realtà è lui che è colpevole alla fine. Cioè, alla fine la responsabilità non è che si può scaricare su qualcun altro. Shebacharlo haverim raim osvivara. Se si è scelto amici non buoni e un aspetto, una vita sociale non buona, dice, è anche una sua responsabilità. E almeno ve al colpa nim. E in oza rich le hashim rak ezulato. Anche se non può accettare tutta la responsabilità, ma non può neanche scaricare tutta la responsabilità. Non può rendere colpevole solamente gli altri, ubifrate, addirittura considerando se stesso un tzadik le tzadik et atzmo. Io sono senza alcuna colpa. Però in gioventù è legato all'immaturità, abbiamo innanzitutto. detto. Innanzitutto, quindi la colpa è relativa. Ok. Allora, Da grande è un'altra cosa. abbiamo detto la colpa è relativa, però abbiamo anche detto, che è è comunque vero, arbitrio. esatto, cioè Quando nel bambino, senso, come fai a scegliere? No, bambino, qui si parla di no, necessità, no, non si parla parliamo di di un'immaturità che però viene portata avanti, che non è sono più anche adulti fermata. immaturi. Relativa, magari, relativa al momento, Ma sta attenuando, come per dire, allora, c'è sempre una scelta, anche quando sì, sei giovane. nel senso che riconosce che ci sono delle questioni fuori dal proprio controllo. Dall'altra parte dice sì, però non puoi attribuire tutta la tua vita a qualcosa che è fuori dal tuo controllo. Cioè devi anche accettare un po' di responsabilità. Non puoi scaricare tutto su le altre persone. Ah, perché i miei genitori? Ah, perché i miei amici? Ah, perché i miei compagni? Ok, fino a un certo punto arriva, ma alla fine dice, ok, e tu non sei una persona per te? Però scusa, Rafa, tante situazioni non te le crei te, però anche Vero? Shem stesso te le Opinabile. crea, Ok? anche alcuni incontri, quindi magari anche incontri di persone sbagliate, Ma c'è cioè, anche. che ti possono comunque far deviare, È un punto di partenza molto indietro, bisogna Verissimo. andare. No, è vero. Però poi c'è la È vero. partecipazione. Ma c'è qualcosa anche di tuo. C'è sempre, no? Cioè, se, Non puoi. per esempio, una persona cade in una rete di, facciamo un caso estremo, no? Cade in una rete di amicizie proprio che lo portano a diventare un delinquente. Magari no, lui non è andato a cercarle queste amicizie, gli sono capitate, gli sono venute davanti e poi piano piano è caduto in questo circolo vizioso ed è diventato un criminale, per dire, no? Adesso, se sarà preso dalle forze dell'ordine in flagrante, in un caso in cui stavano mettendo in atto un crimine, eccetera, lui viene davanti al giudice e dice: non è colpa mia, è colpa delle amicizie che non sono andato a cercare io, mi sono venute davanti. Il giudice deve comunque prendere in considerazione tutto il contesto quando fa la decisione, la sentenza di come tratterà quel caso. Magari darà una punizione che aiuterà questa persona a togliersi da queste amicizie e a riprendere una vita più normale e più onesta. Ma non può neanche scaricare tutta la responsabilità e dire: ok, tu sei puro perché è tutta colpa loro. No, sei stato preso anche tu nell'atto criminale del... Ok, allora significa, quando parliamo di bambini, allora giustamente è meno forte questa distinzione. Ma quando parliamo di adulti, come diceva Alberto, ci sono adulti immaturi, nel senso che a volte anche noi ci comportiamo in maniera non matura. Quando parliamo di adulti, alla fine, quando arriviamo, prima di andare a dormire, si fa lo shema dell'andare a letto e si fa lo cheshbon tzedek, un po' un acconto, un resoconto di quanto è stato il mio comportamento nel corso della giornata, se, come spiega qui, siamo davvero onesti, e proseguiremo adesso il discorso del coprire su se stesso, no? Di come abbiamo iniziato. Se fossimo davvero onesti, le cose del bilancio sarebbe un po' diverso di quello che diamo per scontato. In altre parole, qui sta dicendo che la natura umana non è un'accusa a dire siamo tutti cattivi. La natura umana è proprio quella che il bilancio non è... L'equilibrio non è equilibrato, il bilancio non è equilibrato. Noi andiamo per natura verso il coprire le proprie pecche, ma anche i propri fallimenti, ma anche le proprie debolezze. Questa è la natura umana. E invece esaltiamo nella nostra immaginazione la nostra parte più positiva. Mentre magari se invece riuscissimo ad essere davvero... obiettivi, cosa che non so se è possibile al 100%, però almeno un po' di più di quello che siamo, allora anche con l'aiuto di buoni amici, di parenti, di famiglia con cui abbiamo un rapporto aperto e onesto, ed è per questo che la Mishnah dice che nelle chachaver acquistati un amico, nel senso che non solo ti serve il Rav che ti insegna quale è il giusto comportamento, ma ti serve anche l'amico. Cosa serve l'amico? L'amico serve per questo. Per dare equilibrio, perché il modo in cui una persona vede se stessa non è obiettiva, è ovvio. Non può essere obiettiva, perché è lui stessa la persona. E ugualmente la stessa persona che si cerca di equilibrare grazie all'aiuto di qualcun altro, aiuta quel qualcun altro ad equilibrare lui. Perché funziona anche quello, mica è perfetto, anzi ha la stessa problematica che tutti noi abbiamo. Allora significa che c'è... una situazione non di soggettività, di non obiettività quando una persona guarda se stessa. Questo è quanto abbiamo detto finora. Quando una persona guarda se stessa non è obiettiva per la natura delle cose. Di conseguenza, non essendo obiettiva, qual è questa è la causa, qual è la conseguenza? La conseguenza è che non essendo obiettivi tendiamo ad autogiustificarci. Questo è il punto di quanto stiamo dicendo. Ok? Ora aggiunge. Appunto conclude questo paragrafo dicendo: questa è la natura dell'uomo. E aggiunge anche chi magari si è accorto di un proprio errore che ha fatto in passato e si è pentito e ha deciso di non farlo più. A volte si potrebbe comunque giustificare. Vediamo. Dice: a volte in questa cosa cadono, cioè inciampano in questo errore, anche delle persone che già si sono pentite per qualcosa che hanno fatto di male. Balei teshuva, hanno già fatto teshuva. Agam, shehem, bacharata, gemura. Hanno un totale pentimento. Harata significa pentirsi. Alla siata davar halotov, per ciò che hanno fatto che non è bene, se assa, se fosse stato un atto, o se di bero, che fosse stata una parola, o machshevotave irurava rarim, oppure dei pensieri negativi e non voluti. Un mitcharet alem, e per queste cose ha fatto un pentimento, bacharata gemura, un pentimento totale. Ubochebe marnafsho, e magari in quel momento che si era pentito piangeva con tutto il suo cuore per chiedere perdono ad Hashem. In cos'è? E nonostante questo pentimento sincero, che poteva anche magari esprimersi in delle lacrime versate, nonostante ciò, Olebe dato, comunque gli viene per natura, gli viene in mente, le atzdiche tatzmo, di giustificarsi, di autogiustificarsi, come dicevamo prima, alla siata da varasè, per aver fatto, pensato, parlato in quella maniera. Un mozè kama sibot ba melitlot, e trova delle motivazioni. Il nostro cervello funziona così, che ogni cosa che accade si cerca una motivazione. Ok? Lifamim utole shekol ze balo le sibati gborta koma tv. A volte dice, è per la mia natura, che siccome sono una natura calda, di passione, allora può darsi che mi sono arrabbiato, o mi sono eccitato, poi mi sono accorto che non andava bene, però è per la mia natura, sono fatto così. Degli otto mirutach betivo, visto che sono passionale di natura, la chembit kabrut chomativi yecham levavo, allora quando mi scaldo, tra virgolette, arrivo ad uno stato dove non mi posso fermare, come dice la gente, è più forte di me, no? Vinoia cholla azorbado, non riesce a fermarsi, che sia minakaas, per esempio dalla rabbia in alcune situazioni, vea di buro machshavab di brumirim asirim, oppure parlare e pensare cose non solo negative ma vietate, vechembe maasebe poal, o nell'atto stesso, e agamshi odea sheasurhu, anche se la persona sa che la cosa che sta andando incontro è vietata, Me abedet nafsho significa è pronto ad autodistruggersi in un certo senso, ok? Andare contro se stesso. Ve'alarov gam machlish gufo. E spesso un comportamento negativo è anche nocivo per il proprio corpo, per il fisico, materialmente per la persona. Per la salute, esattamente. Avalmi penei gode la barata choma tv, dice, però per questa grande passione, oppure per il modo in cui sono fatto, che sono, non sono freddo come persona, sono più caloroso, e noi a chola moda l'azmo, non riesco a mantenermi, a trattenermi, e famim inè utole colignana rascia l'ho bisolato. Questo a volte uno lo dice, dipende da quanto è la mia natura, sono fatto così, oppure dice, beh, dipende tutto da quell'altro, che lui mi ha portato su questa via, no? Quello che dicevi prima. Sono stato indotto in errore. Che ploni hesito veitau, il pinco pallino, ploni, mi ha fatto virar fuori dalla via buona e retta. Se fosse per me non l'avrei mai fatto. Però è per questo è anche la persona che già si è pentita, ha fatto teshuvah. Comunque la natura nostra vuole che si trova una giustificazione, un'autogiustificazione. Tutta una perspettiva. Sono pentito, ma... Bravissimo. Io mi pento, però non è colpa mia. Tutto se pensiamo, è la nostra natura. Esatto. Cioè, e viene dagli Yetzer'ara. Ecco, adesso diremo. De Behemet, in realtà, Mikoli karit natzluto, tutto il motivo per cui la persona fa questa autogiustificazione automatica, in realtà è un inganno. E in Noela non è che hata'a, un inganno. Shemat e'atzmo, la persona, si inganna, si delude in un certo senso, Mipnei ahavatole atzmo, per appunto per l'amore naturale che la persona ha verso se stessa. Verakzoi asiba, ed è solamente questa la motivazione per la quale si mashem matzdik, per la quale si autogiustifica atzmo. E qui entra un po' nelle motivazioni che abbiamo detto prima e spiega perché non sono davvero giuste motivazioni. Abbiamo detto prima che la persona dice è più forte di me perché per natura sono portato e arrivo a un certo momento non posso tornare indietro. Più forte di me. Allora dice, affronta questa idea e dice così. Dehine hatana de hagbarat choma tv, questa idea che la natura passionale, forte, calda, non può essere fermata a volte, e nata anabemet, non è una vera giustificazione. Perché? E qui lo vede dal punto di vista mistico, che poi sarà approfondito nel prossimo capitolo, ma prima espone questa tesi. Sentiamo cos'è. Share Yahoma TV, la natura, diciamo, calorosa della persona, da dove deriva? Humeanefesh Ativit, è dell'anima naturale, Abahamit, l'anima animale della persona, questa è la parte base della persona, no? E contro questa forza, Vealze, la controparte gli è stata data, Nitenalo gli è stata data, Hanefesh Ha'elokit, l'anima divina. Perché Sheid Gaber, che possa essere, avere la mano forte, ha la Nefesh Ativit, sopra l'anima animale e naturale. Vezè Tachlit Beriato Baulan, ed è questa la motivazione, questo è lo scopo per cui è stato creato l'uomo in questo mondo, le Hagbir, per rendere più forte, Hakochot Nefesh Elokit, le energie e le forze dell'anima divina, Uleachnia, per sottomettere a Kochot e Nefesh Ativit, le forze e le energie dell'anima animale e naturale. Se non fosse per questa motivazione, Velulei, se non fosse per Avodah Hazot, questo servizio che dovremmo mettere in atto, ovvero quello di Hachna'at Nefesh Ativit, il sottomettere le voglie e la natura dell'anima animale, Lo Hayan Ivraklal, se non fosse con questo scopo, non sarebbe stato creato per niente l'uomo. In altre parole, come continua, Dehare Yesh Malachim, se fosse solo per servire Hashem, ci sono gli angeli, Sheovdim et Hashem, che servono a Kadosh Baruch Hu, Be'ahava, con un amore aperto sentito, Ubeira, e con un timore aperto sentito, Ve'omdim be'bitul, e si trovano tamid, sempre in uno stato di bitul, di annullamento totale davanti ad HaKadosh Baruch Hu. Non hanno un proprio ego. Ubishvil ma nivra Adam, allora se è solo per servire Dio, perché serve l'uomo? Perché è stato creato l'uomo? Se servono degli esseri che servono HaKadosh Baruch Hu, gli angeli lo fanno molto meglio. Non hanno problemi. Allora dice proprio per questo. E lascia a Malachim solamente che gli angeli en bahem yetzerara, non hanno il yetzerara, e di conseguenza ve en chidush bavodatam, non c'è nessuna novità nel loro servizio che fanno, perché è la loro natura. Allora cosa c'è di speciale? È molto bello, ma non è niente di speciale. È come un programma di computer che va avanti come è stato programmato. Certo che va avanti, è stato programmato così. Ubishvil zenivra Adam, ed ecco perché è stato creato l'uomo. Sheyesh bo yetzer hara ve yetzer tov, che ha sia un yetzer hara, un istinto negativo, che anche un istinto, un impulso verso il bene, positivo. Sheyagbir, e lo scopo è sheyagbir et yetzer tov ala yetzer hara, che la persona renda più forte, faccia prevalere il yetzer tov sopra il yetzer hara. E questa cosa è la modalità di servire a Kadosh Baruch Hu che si può fare solo in questo mondo qua. Ubase, e attraverso questo servizio, Ugorem ta'anug lemala, fa sì che ci sia un piacere sopra nel cielo. Da dove deriva un piacere? Da qualcosa di nuovo, da una novità. Mitzada chidush bavodato, per la novità che esiste in questo tipo di servizio. Come è spiegato più a lungo in un'altra fonte, si fa l'esempio del come si chiama l'uccello che parla? Il pappagallo. Allora c'è questo grande re che dentro la sua stanza c'è il pappagallo che sa dire tantissime cose. Cioè, questo grande re potrebbe avere i più grandi filosofi, i più grandi professori che dicono cose ancora più belle, importanti. Loro sono uomini. È chiaro che parlano. Se il pappagallo parla, questa è la novità. Noi siamo pappagalli. Gli angeli sono grandi esseri spirituali, eccetera. Noi siamo pappagalli, se noi parliamo, questa è una novità, questo porta un piacere davanti ad Akadosh Baruch Hu. Allora, Veima nefesh ativicelo, se la persona ha una natura che la sua anima animale, uchumarioter, è molto base, veachom ativi ubit gabrut yetera, e la sua passione naturale è molto forte, allora questo significa... Bevadai gamba nefesh alokichelo yeshkochot chazakim yoter. Significa questo che anche la sua anima divina ha delle forti, delle caratteristiche ancora più forti. In altre parole, è tutto in proporzione. Se la persona dice io non riesco perché è più forte di me, questa è una falsità. Non devi riconoscere che per quanto è forte la tua parte base, la tua parte divina in proporzione è ancora più forte. Ma è scoprirlo. Sì. Certo. Scopre. Vediamo. Eh? No, tipo, non mi ricordo che ho letto, no? Che praticamente sì? Devi guardare a te stesso come se fosse te stesso il primo nemico, praticamente tu che devi combattere. Esatto, questo che stiamo dicendo, tu dopo devi far moglie. Combattere il tuo Yetzer Tov con il tuo Yetzer Ra. Tua moglie. Ma sì. V'yesh bekocho ed ha la forza, l'hitgaber, per prendere controllo e possesso alla Choma Tivishelo, sulla propria, sul proprio, sui propri desideri naturali. Chi en notnim le Adam, perché non si dà una sfida o un ostacolo davanti ad una persona o a una persona, yoter me'erech kochotav, più di quanto potrebbe gestire secondo le forze che ha. Già, che ma'amar rabotenu zichonai vracha, come dicono i nostri maestri nel Talmud di Ketubot, le fum gamla shichna, il peso da trasportare dipende dal cammello. Un cammello che può portare 100 kg, gli metti 100 kg. E se gli puoi mettere 50, gli metti 50. E così si usa questo come metafora per dire quello che HaKadosh Baruch Hu ci dà come le forze è in proporzione a quello che per natura abbiamo, che lui ci ha dato nell'aspetto materiale. Umeachar shenitan lo chom tivi chazak. Visto che può darsi che una persona ha dei desideri base molto forti, allora mi sta mani tenulo, è probabile, non probabile, è sicuro che gli sono stati dati kochot ruchanim, delle energie spirituali, gam ken chazakim, ugualmente forti, sheyuchalit gaber ala chomativishilo, che possa dominare e quindi sottomettere quel calore naturale. Cosa significa? È scritto anche nel Tanya che si parte con una debolezza. Perché? Perché la natura umana, quando una persona è bambina, abbiamo parlato dell'immaturità, tutta la fase iniziale della vita della persona è in mano all'istinto. La persona non nasce facendo delle scelte. La persona, infatti per questo la Gemara dice il Yetzer Hara arriva prima del Yetzer Tov. Il Yetzer Hara viene chiamato Melech Zaken Ukesil, un re vecchio, anche Ksil, stupido c'è scritto, però vecchio nel senso che precede. Lo Yetzer Hara, la sua presenza precede lo Yetzer Tov, perché per natura la persona funziona secondo l'istinto. L'istinto è un istinto base di sopravvivenza, di quello che è il desiderio materiale del corpo. No, il bambino deve mangiare, l'unica cosa che pensa è mangiare. Deve dormire, l'unica cosa che pensa è dormire. E così, anche crescendo dalla fase di neonato, ma anche più avanti, è uguale. Solo verso l'adolescenza la persona inizia a pensare, ed è per questo che abbiamo genitori ed educatori per cercare di disciplinare, di fare, anche quando il bambino ancora non lo può capire. Però devi fare così, non lo capisci? Lo capirai. No, sì. Cioè, tutto questo cosa significa? La natura è fatta in questa maniera che inizia come una cosa selvatica, poi bisogna domarla. Allora, in questo senso, noi conosciamo meglio la nostra parte animale che la nostra parte divina. Ma la nostra parte divina non è qualcosa di esoterico, di chissà, dobbiamo andare sulla Luna, su Marte per trovarla. Significa semplicemente trovare dentro di sé, non è facile, ma faticare per trovare dentro di sé la forza. Come si trova la forza? La prima cosa è quello che ha detto qui. Sapere di avercela. Abbiamo la fede in Akadosh Baruch Hu che egli non mette sul cammello più di quello che è il peso di quel cammello. Significa che il tipo di, non dico la cosa, l'ostacolo che ti viene incontro, significa che hai anche la chiave per risolverlo. È vero anche questo, però dico in maniera più generale. La tua natura con la quale sei nato, la nostra natura con la quale siamo nati, uno che dice è più forte di me, è perché non riconosce questa cosa che dovrebbe riconoscere, che non esiste è più forte di me, perché di chi stai parlando quando dici è più forte di me? Stai comunque parlando di te stesso. Così si sente, io uso questo termine perché lo sento molto a Roma. E sono arrivato a quel punto, era più forte di me. Chi era più forte di te? Pensiamo. Non che c'era qualcun altro che era più forte di te. Il termine più forte di me è usato correntemente verso se stessi, riguardo se stessi. È più forte di me. Chi è? Io sono più forte di me. E allora è semplicemente una questione di uno switch mentale. Non esiste il più forte di me. La forza è la capacità di trovare la strada per reagire a quella situazione. Esattamente. C'è sempre, un certo livello di consapevolezza. È più forte di me significa, esiste il più forte di me, ma cosa significa davvero? Non che è davvero più forte. Più forte di me vuol dire ho rinunciato. È una ho alzato le mani. Quella è la follia praticamente. Questo è lo scatto della follia che abbiamo detto all'inizio, che dici non è possibile in altra maniera. E poi dopo, ho fatto un errore. E allora si pente, come abbiamo detto in questo capitolo, la persona si è pentita, ha fatto teshuvah, pianto nella teshuvah e tutto. E al tempo stesso dice, però ci sono tante motivazioni. Lui sta dicendo, lascia stare le giustificazioni. Non siamo qui per giustificare. Perché se volessimo davvero approfondire, troveremo che le giustificazioni, come abbiamo visto qui, non è che sono così al 100% assolutamente ferree. Possono essere un po' di brecce in queste giustificazioni. Lascia stare le giustificazioni. Riconosci e abbi la fede in HaKadosh Baruch Hu, soprattutto la bitachon, che è la fiducia, che se lui ti dà un Yetzer Hara di un certo tipo, o un problema di un certo tipo, o una sfida di un certo tipo, ti dà anche dall'altra parte la possibilità, l'energia, la forza, ok? Non parliamo di energia in senso mistico, la forza della volontà per poterlo soprassedere e sottomettere. Ora nel prossimo capitolo si approfondirà da dove in realtà trae la forza l'anima divina per avere la mano forte sull'anima animale, perché ci sono due anime, l'anima animale è più forte di umano normalmente, no? Allora, da dove trae davvero questa forza? Questo si approfondirà nel prossimo capitolo. E in questo capitolo un'altra cosa che abbiamo fatto presente è il fatto che questa idea di sottomettere alla volontà dell'anima divina, cioè che è la volontà della Torah, l'anima animale è la motivazione della nostra esistenza. Perché noi siamo qui per servire Hashem, ma non per servire Hashem come angeli, perché non siamo angeli, e se mettessimo in confronto il nostro servizio e il loro servizio saremmo niente, no? Invece noi abbiamo qualcosa che loro non hanno. E cos'è? È questo. È il pappagallo che parla, il sottomettere la parte base, questo è ciò che dà piacere sopra nel mondo superiore, ed è questo il motivo per cui siamo qui in questo mondo.